veste superbe memoria di un'estirpe insidiosa, benedice e arrova, vadano terre sparse. Che sento la cenere infedele di sperda il vento. Regina, soldati, abbi da tanto le vostre di sangue, che s'avanza a cercar nello signore per reali sepolcri testa modesta. Alla vendetta mia non basta il sangue, a voi guerrieri cade l'altero amore. Oddio, tutto in vano tentato, tempi fermate, odimi per dice. Che dici e farò, materno amore, se fossi le tue voci e il tuo consiglio, mi trafigga lo sposo e viva il figlio. Apransi queste nere stanze di morte, esci dal tuo ricovero, flebile frutto di infelice notte, e corregino il grande terror di Roma. Ecco l'avanzo estremo di quel sangue che abbordi. Questi o regina e il tuo nipote, in esso del tuo genio guerriere l'indore osserva, e col tuo sangue il tuo rigor consiglia, che al fin madre mi sei. Non mi sei figlia,